si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento della tarda mattinata, la domenica, Radio 24, si può fare, cronache da un paese migliore. Bene, cerchiamo di invertire il trend della settimana che ci lascia sempre un po' scoraggiati con le notizie della cronaca. Allora ecco le nostre piccole grandi storie virtuose. Cominciamo con qualche notizia della settimana. Dal Corriere del Mezzogiorno, fondo Verbum Caudo, prima trebbiatura in casa del boss greco. Di che si tratta? Della prima trebbiatura del grano nel fondo di Verbum Caudo, che è stato sequestrato alla mafia, come sapete, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, a Polizzi nel Palermitano, confiscato al boss Michele Greco. È una storia che viene da anni e anni fa, adesso è stato assegnato alle cooperative Placido Rizzotto, Pio La Torre del Lavoro e non solo. Ebbene, insomma, un momento simbolico, la prima trebbiatura del grano in questo terreno confiscato alla mafia, però sono anche progetti positivi che avanzano. Un'altra notizia sul fronte della legalità fa anche un po' sorridere, insomma, questo, in questo caso, il codice etico per la mozzarella di bufala. Ebbene, insomma, sapete che la mozzarella campana viene prodotta in territori che sono spesso in qualche modo contaminati anche dalla criminalità, dall'illegalità, dalla camorra. Ecco che arriva il codice etico per chi produce la mozzarella di bufala campana DOC, un elenco di regole alle quali attenersi per rispettare la legalità. C'è anche l'obbligo di presentare ogni anno il certificato di antimafia e poi anche l'obbligo di utilizzare il latte proveniente da allevamenti DOP. Un'altra notizia riguarda il mondo dell'editoria, la leggiamo dal sito wateronline.info. Ebbene, dal mondo dell'editoria italiana arriva la prima buona notizia per i lettori e per le ultime foreste del pianeta. Leggiamo, la più importante riguarda il quarto gruppo editoriale italiano, la Giunti Editore, che si impegna da oggi ad una più rigida politica degli acquisti di carta a deforestazione zero. Insomma, sarà quasi tutta e sempre più carta riciclata quella che verrà utilizzata dal quarto gruppo editoriale italiano Giunti. Queste sono alcune delle buone notizie di questa settimana. Noi aspettiamo le vostre segnalazioni anche sul profilo Facebook del programma, si può fare, trattino Radio 24, e poi durante la settimana anche alla nostra segreteria telefonica, non dimenticate 828 12 12, le ricette per salvare l'Italia in un minuto. Il messaggio è questo: tutti gli uffici pubblici in Italia sono aperti di giorno, con le luci tutte accese. Solo se si facesse un'ordinanza, è responsabile ogni capo ufficio, di spegnere le luci durante la giornata, si risparmierebbero non so quanti miliardi ogni anno. Obbligatorio accendere le luci soltanto in caso in cui proprio è necessario, in ambienti dove non ci sono finestre. Altrimenti sempre con le luci spente di giorno. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Ti cominci a fare una domanda sui uffici che se fa la onda. Se ti vuoi trovarti un lavoro, paghi che il buio paga il tesoro. Insomma, questo motivetto di qualche anno fa dei Pittura Fresca, che come avete sentito, dimmi chi ha inventato le tasse, si chiede ironicamente Pittura Fresca. Insomma, le tasse, si sa, non fanno piacere a nessuno. Chissà però se un'iniziativa come quella del comune di Falconara può aiutare, non dico a farsene piacere di più, ma insomma ad accettarle un po' meglio. Un comune dal fisco amico non è l'unico, parliamo di un piccolo movimento di città che c'è in Italia, dove le amministrazioni, sindaci, giunte, consigli comunali hanno deciso di fare un passo verso i cittadini: trasparenza, presentazione pubblica dei bilanci, incontri anche per valutare poi l'uso, la gestione delle finanze municipali. E poi, dulcis in fundo, anche se la notizia non è proprio recentissima, a Falconara hanno deciso di fare a meno di Equitalia. Sì, avete capito bene, insomma, la gestione, adesso sentiremo come, dei crediti, viene fatta in un'altra maniera. Allora noi salutiamo l'assessore al bilancio del comune di Falconara, Raimondo Mondaini, buongiorno. Salve, buongiorno. Che non è un gioco di parole, Sandra Raimondo, però insomma è nome e cognome esatto del nostro assessore. Benvenuto, caro assessore. Senta, insomma, questa è l'ultima iniziativa, questa di cui partiamo adesso. Cioè, voi avete presentato poco fa in consiglio comunale, qualche giorno fa, il bilancio previsionale ed avete utilizzato un sistema di slide, insomma, per farci capire di più. Trasparenza, è questo su cui voi state puntando nel vostro comune? Sì, in effetti, ecco, abbiamo adottato questo sistema di informazione, di comunicazione, per cercare di rendere un po' più comprensibile una materia abbastanza ostica come quella del bilancio di previsione dei comuni. E anche perché ci sono novità molto importanti che ci attendono e che incideranno sicuramente sul modo di gestire gli enti locali, quindi è stato anche un'occasione per far capire da cosa nascono a volte le scelte delle amministrazioni locali. Sì, tra l'altro io credevo che fosse normale impiegare, insomma, anche strumenti di pubblicità, di trasparenza così, invece poi scopro attraverso il fatto che, insomma, la vostra è un'iniziativa che fa notizia, che invece dalle altre parti non è così. Insomma, voi avete intrapreso una strada un po' particolare, vi sentite un po' delle mosche bianche in questo tentativo di trasparenza sulla questione del fisco, per esempio, oppure invece vi inserite così in un movimento, dicevamo, che ci sono anche altre città che fanno cose simili alle vostre? Chiaramente io posso dire della nostra esperienza. Devo dire che noi abbiamo iniziato anche con degli incontri con i cittadini, ad esempio sul tema dell'IMU, nella spiegazione dei meccanismi che stanno alle spalle di questa nuova imposta. Abbiamo cercato di spiegare come nascono i tagli ai trasferimenti degli enti locali, sempre collegati alla manovra IMU. Quali sono le reazioni dei cittadini si crea consapevolezza, oppure c'è anche un po' di amarezza? Perché insomma, organizzare degli incontri per parlare delle tasse, in effetti... In effetti sembra... Però voi ci provate. Quali sono i risultati a livello poi di reazione dei cittadini? Insomma? Io devo dire che sono stato abbastanza soddisfatto, nel senso che da un lato sicuramente c'è così l'amarezza nel sentirsi dire che si devono pagare delle imposte aggiuntive, ma c'è anche la volontà di capire da parte della gente, e quindi c'è anche la disponibilità ad ascoltare e quindi ad acquisire elementi per avere una cognizione più precisa di quello che sta accadendo. Quindi tutto sommato, ecco, io credo che sia stata un'esperienza utile. Positiva. Poi il vostro è un piccolo comune, quindi anche iniziative dove magari la partecipazione non sarà altissima, però magari la ricaduta poi può essere significativa. E veniamo a quest'altro aspetto che caratterizza la vostra azione di comune, così in qualche modo dal fisco amico, abbiamo voluto titolare così, è il fatto che voi da qualche tempo, ormai sono alcuni annetti, credo di aver capito così, fate a meno di Equitalia, l'agenzia creata dall'ex ministro Tremonti e diventata poi recentemente il simbolo, a torto o a ragione, di una certa oppressione fiscale. Come è venuta e perché questa idea? La scelta è stata effettuata alcuni anni fa, già dal 2008, e devo dire che è nata dalla consapevolezza del fatto che la riscossione sta diventando e è diventata un momento importante della gestione di un comune, e quindi lì avere il controllo diretto di questa fase importante è sicuramente molto utile per una sana amministrazione. È chiaro che ci sono state delle difficoltà, perché abbiamo dovuto approntare dei servizi, creare le professionalità, ma io devo dire che abbiamo raggiunto ottimi risultati, e tutto sommato anche il rapporto tra comune e i cittadini è sicuramente diverso tra quello che si può instaurare tra i cittadini ed un soggetto più distante, diciamo, no? Che quindi sì, può avere anche una minore attenzione tante volte per quelle che sono le situazioni specifiche di ognuno. E tra l'altro avete avuto anche dei riconoscimenti, perché siete stati premiati credo nel 2010 per la riduzione dei costi di funzionamento, evidentemente questa macchina che avete messo insieme in piedi. Sì, in effetti sì, abbiamo ricevuto questo riconoscimento per i risultati raggiunti, perché devo dire noi avevamo inizialmente una società per la riscossione, abbiamo, diciamo, ci siamo riappropriati interamente di questo servizio e quindi ecco, questo ci ha dato sicuramente delle soddisfazioni che sono concretizzate anche con questo riconoscimento. Insomma, andate avanti così, Falconara. Grazie intanto all'assessore al bilancio del comune di Falconara, Raimondo Mondaini. Si può fare, insomma, una città con un fisco più a misura umana. E allora, questa è la prima storia di oggi. Adesso facciamo una pausa per il traffico e poi ci ritroviamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ecco qua, parliamo proprio di loro, dei contadini, insomma un mestiere che esercita sempre un certo fascino, almeno sicuramente sui bambini. Questo era lo Zecchino d'Oro di un anno fa, per esempio, ma insomma senz'altro l'immagine dei contadini sta anche cambiando, non più soltanto uomini, magari di una certa età, ma anche giovani, donne, meglio se magari con produzioni nuove, in linea così con le esigenze del mercato di oggi. Se vi ritrovate in questa immagine, in questo ritratto, fatevi avanti, perché la Coldiretti anche quest'anno assegnerà a settembre gli Oscar ai giovani imprenditori innovativi. Le iscrizioni sono tuttora aperte, un modo anche per riportare un po' di attenzione sul mondo della campagna, dell'agricoltura, un mondo spesso e volentieri trascurato. Salutiamo la nostra ospite, lei è una coltivatrice di nuova generazione che si è messa in luce nella recente assemblea della Coldiretti. Paola Polce, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Agricoltrice contadina piemontese, anche se con radici in Abruzzo, poi scopriremo, e che si è messa in luce perché? Perché lei produce piante che poi servono per produrre a sua volta dei detersivi naturali che servono per non inquinare soprattutto le acque. Come nasce questo tipo di produzione da parte di una persona che tra l'altro, insomma, a un certo punto della sua vita ha scoperto questa passione per l'agricoltura? Ma l'idea era di per sé semplice: coltivare delle piante, delle erbe officinali per fare dei macerati idonei a produrre dei detersivi naturali, farlo sapere a tutti e diffondere questo messaggio il più possibile per la salvaguardia delle acque. Questa sembrava una cosa semplice, in realtà è stata, direi, oggetto di grandi meditazioni per capire come all'atto pratico fare tutto questo partendo dalla terra. La convinzione di base di tutti noi tre, perché siamo in tre poi a fare questo tipo di attività, è che l'agricoltura può dare da mangiare, può curare, ma esiste anche una branca che si chiama agricoltura no food, no? Che è del tutto inesplorata, dove dall'agricoltura, secondo noi, fino a ieri l'uomo traeva sostentamento in vario modo, faceva tessuti, faceva colori, biomasse per riscaldamento, eccetera, eccetera. E quindi ci è venuta l'idea di utilizzare l'agricoltura per un progetto estremamente importante, la salvaguardia delle acque. Ecco, ma ci tolga anche qualche curiosità, insomma, che piante producete, per quale tipo di detersivi, di prodotti per, certo, che poi allora, vengono fatti e messi anche sul mercato, insomma, per pulire la cucina? Noi abbiamo acquistato un quarto del lago di Alice Superiore, che è una zona SIC, sito di interesse comunitario. Una volta ripulito da un bosco piuttosto disordinato, abbiamo scoperto delle terrazze, perché il territorio è una costa che si presenta quindi idonea a una coltura intensiva e non estensiva, con dei bellissimi muri a secco che sono veramente un capolavoro, che danno anche molti benefici alle piante, perché raccolgono il sole, perché le proteggono dal clima rigido, eccetera, eccetera. E abbiamo pulito queste terrazze e raccolto diciamo un 10.000 metri quadri di erbe dentro delle casse in castagno alla moda medievale, ma in realtà perché è assolutamente molto comodo e si integra in un paesaggio, perché la nostra la nostra costa in realtà sta diventando un parco naturale, anche se coltivato, è un binomio molto interessante. Abbiamo cercato di integrare le nostre coltivazioni nella natura senza snaturare un posto. Sì, ma quindi si tratta di erbe che erano già della zona? Alcune, quasi tutte sì, perché comunque la zona di per sé era molto ricca di rosmarino officinale, di timo, di menta di ogni genere e specie, di alloro. Ma che tipo poi di insomma, di prodotti vengono fuori per essere impiegati nella pulizia di che cosa? Allora, queste erbe, vi faccio il passaggio intermedio che è molto interessante, queste erbe vengono da me prodotte, raccolte secondo i tempi balsamici e messe a macerare in grosso modo tre sostanze. In alcol biologico da grano, i territori sono in conversione biologica e tutto quello che noi facciamo è sotto l'egida del biologico per svariati motivi, perché comunque significa anche acquistare da fornitori che come noi in realtà hanno a cuore gli stessi interessi di difesa del territorio, perché penso che oggi come oggi il contadino sia chiamato ad avere una grande responsabilità quando mette le mani su un territorio sempre più devastato, no? Sì. E quindi noi siamo sostenitori di questo tipo di politica. Quindi diciamo che queste erbe vengono messe o sotto macerato di alcol biologico da grano, oppure in aceto di mele biologico, oppure in grasso di cocco. E secondo le varie piante si aspettano determinati tempi e maturano quindi questi macerati che con l'abilità di Antonina Maria Botta, che è la chimica naturalista, come si chiama lei, che ha inventato e ha studiato per 20 anni questa modalità di esecuzione. Sì, perché si tratta di miscele in qualche modo molto originali, ora io non sono un esperto, però mi sembra di capire sono molto legate sia alla tradizione erboristica classica, sia a un'indagine etnica su come lavavano fino a ieri nelle campagne, per cui abbiamo introdotto piante a largo braccio come l'ortica, che abbiamo trovato spontanea, ma in realtà poi abbiamo coltivato. Avete dovuto coltivare. Ma che cosa ne viene fuori? Prodotti per che tipo di igiene? Sono prodotti liquidi intanto, perché hanno un impatto ambientale diverso, vale dire che i detersivi in polvere tendono per loro natura a rimanere nei bassi fondali, mentre un detersivo liquido fatto con l'attenzione che noi appunto usiamo nei nostri prodotti tende a essere più facilmente biodegradabile. Quindi sono 6 prodotti per la pulizia totale della casa, quindi pavimenti, piatti, bucato, multiuso, sgrassatutto e lavastoviglie, che hanno molteplici effetti benefici, non soltanto appunto hanno un bassissimo impatto ambientale e sono gradevolmente profumati e colorati esclusivamente con estratti vegetali, e questa è una cosa veramente rara, l'abbiamo fatta solo noi. Insomma, dopo tutta la descrizione di questi terrazzamenti, di questi giardini in Piemonte, sopra i Verai, viene voglia, si sente già il profumo, ma c'è già un mercato per questo tipo di prodotti? Voi avete già una forma di commercializzazione? Stiamo assestando, direi, molto felicemente, dopo un anno di grande, un anno di tirocinio, un anno e mezzo, in cui abbiamo cercato di capire anche dove volevamo essere collocati, ma anche in questo la Coldiretti ci è venuta d'aiuto, nel senso che la nostra realtà comunque è una realtà di ricerca, è comunque piccola, però abbiamo avuto, come dire, l'interesse anche della grande distribuzione, che era molto appetibile per molti motivi abbastanza logici. Insomma, fate un prodotto che zero impatto sulla natura, un prodotto che ha molto per avere appeal sul mercato. Abbiamo capito qualcosa di più, adesso sappiamo, piante per produrre detersivi naturali, una storia che avete sentito viene dal Piemonte. Grazie Paola Polce per il suo racconto e per questa bella, insomma, innovazione. Agricoltura che cambia e si rinnova. Questa era la storia che ci veniva dal Piemonte. Adesso invece è il momento dell'ultimo, perché questa tra l'altro è anche l'ultima puntata, poi andremo in vacanza per qualche settimana, l'ultimo consiglio del Movimento per la Decrescita Felice. Questa volta ci porta a Bolzano per un negozio molto molto particolare. Sulla questione della crescita, per crescere di più, per stimolare la crescita, nuove occasioni di crescita, la crescita. Siamo ossessionati dalla crescita economica. Eppure, per vivere bene, non sempre serve spendere di più. Scopri insieme a noi la decrescita felice. C'è un posto in Italia dove puoi prendere quello che vuoi senza pagare niente. No, non è la tesoreria della Margherita e l'Usi stavolta non c'entra niente. È Passamano, un negozio di Bolzano dove semplicemente non si usano i soldi. Ce lo racconta Alessandro da Bolzano. Da qualche mese è nata questa iniziativa abbastanza originale che si chiama Passamano Bolzano. È un non negozio praticamente, il negozio del gratis, il negozio del dono, del recupero e del riutilizzo. È nata qualche mese fa da questo gruppo di pazzi che siamo noi. Siamo un gruppo di ambientalisti da sempre, alcuni di noi fanno parte del movimento NOTAV, alcuni sono grillini e comunque siamo tutti del movimento decrescita. E a un certo punto abbiamo deciso di fare anche qualcosa proprio di utile e di creativo, perché in questo mondo è assolutamente necessario smettere o comunque ridurre di lavorare, di consumare, di gettare le cose. Quindi questo è un posto dove le persone portano tutto quello che non gli serve più, che è in buono stato, che è ancora pulito, e dove le persone possono anche venire a prendere quello che gli serve. Quindi gli oggetti si possono prendere e dare senza denaro in cambio. Quindi questo è un negozio gratis. Passamano è aperto solo dalle 17 alle 19 perché chiaramente è basato sul volontariato, è un negozio che non ha scopo di lucro naturalmente, non riceviamo contributi pubblici, i volontari non percepiscono compenso e comunque le persone, e lo fanno anche senza che glielo chiediamo, le persone possono lasciare un'offerta, naturalmente se ti porti a casa un impianto stereo, un bellissimo vestito di pelle, insomma il cittadino medio di Bolzano lascia sempre un'offerta. No? Queste offerte servono anche per pagare le spese del negozio naturalmente. Al passamano si trova di tutto, praticamente dai vestiti alle scarpe, agli articoli sportivi e giocattoli, libri, fumetti, CD, DVD, anche piccoli elettrodomestici e poi anche apparecchiature elettroniche. E poi si trova ancora di tutto, insomma, soprammobili, gadget, lampadari, attrezzature, quadri, cornici. Ecco, poi abbiamo anche intenzione di ampliarci, fare un laboratorio per aggiustare queste cose, perché oltre che riciclarle e riutilizzarle sarebbe importante aggiustarle, perché purtroppo molte cose che ci arrivano sono rotte, le dobbiamo portare in discarica e a noi ci dispiace molto, no? Un'altra cosa è che abbiamo da poco aperto anche la nostra pagina Facebook, Passamano Bolzano, è molto semplice, e abbiamo anche un indirizzo email, passamano.bolzano@gmail.com. Avete ascoltato Il negozio dove non si paga, è la decrescita felice. E si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Si può fare cronache da un paese migliore. Noi aspettiamo le vostre notizie, le vostre cronache per un paese migliore durante la settimana. La segreteria telefonica 828 12 12 con la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto, ma anche sul profilo Facebook del programma potete commentare le storie che sono andate in onda oppure segnalarcene di nuovo. Si può fare Radio 24. E adesso è arrivato il momento, come ogni settimana, del nostro avviso ai naviganti, insomma le nostre previsioni economiche. Avviso ai naviganti. Si avvisano i signori naviganti a vela e motore che fossero bloccati in acque stagnanti o infestate di squali che le turbolenze degli ultimi tempi provocati da una zona di alta pressione fiscale verranno presto mitigate da un'insolita ondata di solidarietà e fantasia che porterà credito ed equità su tutta la penisola. Almeno speriamo. Insomma, stavolta la solidarietà dell'avviso ai naviganti è diretto in particolare alle zone terremotate dell'Emilia Romagna. C'è un'iniziativa che riguarda le attività produttive in particolare. Si è messa in moto una rete di persone, di soggetti, di aziende che hanno dato vita al sito www.facciamoadesso.it, che ha l'obiettivo di aiutare le aziende a svuotare i magazzini, a vendere i propri prodotti invenduti. Parliamo delle aziende colpite dal sisma, facendo cassa e superando, insomma, le numerose difficoltà del momento che ci sono con i capannoni inagibili, tutti i problemi economici e logistici che sono purtroppo legati al terremoto. Ne parliamo con Alberto Franchini, consulente tra i fondatori di questa iniziativa. Buongiorno. Buongiorno Alessio. Eccoci qua. Allora, insomma, che gli emiliano-romagnoli non restino con le mani in mano, questo lo sapevamo e lo abbiamo imparato ad apprendere di nuovo dopo quello che è successo purtroppo il 20 maggio scorso. Ci sono state una serie di iniziative di autoaiuto e questa è la cosa bella, che viene il messaggio importante, che viene anche da questa terra. Non si sta con le mani in mano ad aspettare, si fanno delle iniziative e ci si autoaiuta, ci si dà una mano da soli. E questo è un tipico esempio. Ci spieghi lei come, quando vi siete mossi con questa idea? Ma noi ci siamo mossi a partire dal giorno immediatamente successivo al terremoto. L'idea che ci è venuta, appunto, come anticipavi tu, era quella di riuscire a smobilizzare quello che sono un patrimonio per le imprese, piccole e grandi, non è importante quello, per trasformarlo in liquidità disponibile per poter ricominciare. E in aggiunta a questo anche quello di riuscire a creare delle occasioni di contatto per queste imprese con nuovi clienti, perché chiaramente la situazione ha anche portato a far sì che le vecchie reti di clienti in questo momento non sono più presenti. Certo. Ricordiamo il sito www.facciamoadesso.it. Cosa trova chi adesso va su questo sito? Cosa trova? Ma in questo momento il sito è partito giusto da un paio di giorni, quindi i primi che si sono mossi sono commercianti della zona, quindi possiamo trovare dell'aceto balsamico, delle lenzuola, dei divani, del mobilio, arriveranno sicuramente attrezzature e ogni altra cosa appunto possa essere in questo momento trasformata in energia per poter ripartire. Premetto che questa iniziativa nasce, come avete detto voi in apertura, come un'iniziativa di privati, nel senso che a noi è venuta l'idea, poi abbiamo raccolto l'adesione immediata di tutta una serie di altre realtà imprenditoriali che hanno portato un contributo in termini di competenze e risorse, tutto completamente gratuito, ed ha avuto l'avallo dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che a questo punto è titolare del dominio e del portale, e questo garantisce lo spirito no profit dell'iniziativa e anche la tutela dei dati che vengono caricati. Certo che questa è una cosa importante, insomma, adesso con questo avallo istituzionale non si tratta più di un'iniziativa così, per quanto meritevole, di privati, ma anche tutto l'aspetto, per esempio, della tutela della privacy dei dati che vengono coinvolti sarà assolutamente salvaguardata. A proposito, come funziona il sistema del pagamento? Per chi può essere interessato a visitare il sito e a fare poi gli acquisti? Noi abbiamo voluto creare innanzitutto un luogo di incontro, non in modo retorico, ma di incontro tra aziende che hanno in questo momento necessità di vendere e altre aziende che possono essere interessate a comprare, o cittadini che vogliono dare una mano facendo acquisti solidali. E non è un portale di e-commerce, nel senso che sul portale non avvengono transazioni economiche, ma semplicemente chi vuole vendere qualcosa lo pubblica sopra il portale e le persone possono prenotare. Nel momento in cui la prenotazione viene accettata dal venditore, a questo punto al venditore arriva un SMS, oltre che una mail, con i riferimenti del potenziale acquirente e nasce un contatto diretto. In questo modo c'è anche la possibilità di creare una relazione uno a uno tra persone, quindi possono conoscersi, possono fidarsi, si creano rapporti tra aziende e anche nuovi clienti. Riprendo questa cosa degli SMS perché non è semplicemente un portale, ma il problema che ci siamo posti è la condizione in cui si trovano le aziende sul territorio. Non sono abituate a operare su internet e in questo momento hanno anche difficoltà di connessione, per questa esigenza di far arrivare le informazioni anche via SMS, come quella di organizzare dei volontari che, dotati di tablet e connettività, possono andare in loco ad aiutare gli imprenditori a caricare le loro proposte. Insomma, quindi anche un metodo appunto per creare una rete attorno a queste persone titolari di attività produttive che hanno avuto difficoltà, dalle più piccole ma anche alle più grosse. Allora lo ricordiamo, questa iniziativa importante di autoaiuto, io l'ho definita così perché non si chiede niente a nessuno, ma ci si organizza per fare qualche cosa per le aziende terremotate dell'Emilia Romagna. www.facciamoadesso.it è questo il sito dove si può andare. Io ringrazio Alberto Franchini, che tra i fondatori è un consulente, insomma si è rimboccato le maniche anche lui per questa iniziativa. Il sito è online da poco, quindi magari si potrà aspettare qualche giorno per vederlo più operativo, più succoso, ma già adesso conviene darci un'occhiata. Grazie Franchini. Grazie a voi. In bilico tra santi e falsi dei, solo corretto da un'insensata voglia di equilibrio e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho speso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. E insomma, proseguiamo un po' con il nostro avviso ai naviganti, anche questo di cui stiamo per parlare lo è in parte, nel senso che insomma, parlando di estate, come Negramaro ci hanno splendidamente introdotto, e anche della voglia di stare in giro, di divertirsi, ma tenendo conto del fatto che insomma, tutte le previsioni, tutte le statistiche dicono che gli italiani faranno meno vacanze, le hanno già fatte, hanno tagliato insomma, i cordoni della borsa, ci sono meno soldi da spendere purtroppo. Ebbene, insomma, ci sono sempre delle alternative, per esempio le sagre, sì, insomma, le sagre, certo non è la stessa cosa andare in una località di mare oppure andare in una sagra, ma insomma, oppure andare in giro per il mondo, va bene, ma insomma, se i giorni di vacanza si accorciano, si resta a casa e si può riscoprire questo modo di passare il tempo, di divertirsi, perché no, soprattutto in maniera low cost. Le sagre, insomma, ce ne sono tantissime, di tutti i gusti, di vecchie e di nuove, c'è anche chi ci aiuta nella scelta e noi salutiamo proprio Marcello Mascellini, che è il fondatore di folklore.eu. Buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Eccoci qua, allora insomma cominciamo subito a ingolosire un po' gli ascoltatori con qualche sagra delle più strane, insomma, perché quelle più tradizionali, da quella del tortello a quella del... poi ci sono quelle di stagione naturalmente, adesso ci dirà. Quali sono le più originali per chi volesse in qualche modo rinnovare questo rito? Ma allora abbiamo subito in questi giorni in programmazione a Brisighella le feste medievali, Ravenna, quindi Emilia Romagna. È una bella manifestazione ricca di folklore e di ricostruzione storica. Quindi abiti d'epoca, luci spente, lumi. Esatto, esattamente. Una bella ambientazione per chi si vuol divertire. Quando a Brisighella? Comincia oggi e termina il 2 luglio. Benissimo. E poi qualcos'altro? Poi abbiamo qualcos'altro, diciamo, ci proiettiamo un po' oltre il periodo estivo. Possiamo suggerire una bellissima festa sempre di ispirazione medievale, che è la Sagra delle Castagne di Soiano nel Cimino in provincia di Viterbo. È una festa che tra l'altro è tra le più antiche della Tuscia e, a dispetto del nome che farebbe pensare semplicemente ad una sagra gastronomica, parliamo di una vera e propria rievocazione storica che si ispira a degli eventi passati della storia appunto del paese. E anche qui cortei storici in abiti medievali, spettacoli, taverne e piatti tipici per gusti, ovviamente. Si tratta di un modo anche di passare il tempo, di divertirsi, di andare a cena fuori, sempre economico. Ora io qualche sagra la frequento, però insomma il ricordo è sempre quello di prezzi economici, iniziative insomma popolari, è così, no? È questo il tipo di... Assolutamente. Mediamente il prezzo di un menù completo in una sagra è di 14-15 euro a persona, quindi sicuramente... Cioè mangiando bene, perché poi lì si mangia sempre esagerando, per cui primi, sì, secondi, vino e quant'altro. Voi stessi che gestite questa rete insomma di informazioni, di segnalazioni sulle sagre in Italia... credo aver capito, avete registrato nuova attenzione intorno al fenomeno delle sagre. Sarà una necessità causata dalla crisi, però insomma è anche un modo appunto piacevole per trascorrere la serata. È vero. Diciamo che in parte è una tendenza che è stata favorita da internet, per cui prima i budget pubblicitari delle feste locali non si potevano permettere di arrivare ad essere conosciuti a livello nazionale o internazionale. Ora con internet c'è questa notorietà sicuramente più semplice. Dall'altro lato c'è sicuramente, complice la crisi, la possibilità di passare un bel weekend o anche un singolo giorno spendendo pochi soldi, andando quindi nel paese più vicino, nel caso appunto uno non avesse voglia di camminare tanto con la macchina, e quindi comunque avere la possibilità di passare una bella giornata. Non so se ci vuole lasciare con qualche altra segnalazione, qualcosa sempre di stagione, perché abbiamo fatto un salto fino alle castagne, vogliamo tornare un attimo a questi giorni per lasciarci. Qualcosa in questi giorni, abbiamo ad esempio Mercanzia, che si tiene a Sutri, in provincia di Viterbo, molto interessante, si svolge sempre in questi giorni. Abbiamo poi la saga del muscolo a Cadimare, La Spezia. Ah, quindi proprio si va in pieno clima estivo. Va bene, insomma, poi per chi volesse saperne di più, folklore.eu. E noi lo ringraziamo, Marcello Mascellini, grazie per essere stato con noi. Eccoci qua, allora insomma avete sentito, ce n'è per tutti i gusti, andate sul sito e scovate la più vicina a voi per poter trascorrere una serata particolare. Adesso facciamo una pausa per il traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare, cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, l'ultimo spicchio di trasmissione, tra l'altro l'ultima puntata in questa versione estiva, poi andremo in vacanza per qualche settimana e ci risentiremo a settembre. Adesso il prossimo ospite che introduciamo così. Celletti, il primo giorno è già un minuto di ritardo, eh? Comandi, signor tenente. Il tuo tratto è questo pezzo di circonvallazione che va da Porta Maggiore a Porta Romana. È un tratto di strada abbastanza normale. Sì, a 2 chilometri c'è una curva pericolosa, è chiamata la curva della morte. E questo incrocio, che nelle ore di punta è un po' movimentato, devi solo sorvegliarlo. Non dubiti, signor tenente. Che c'è? Che c'è? Ah, niente, stavo provando il fischietto, vada pure. Vada, vada! Buongiorno, lei non ha visto il divieto di sosta? E lei non ha visto che il divieto è dalle ore 8 alle ore 14? Oila! Lei c'è il triangolo? Sì. Eccolo. Favorisca la patente, per favore. Come mai non hai il bollino? Il bollino è dell'ultima pagina. Non lo sa? Domando scusa sia per il primo sia per il secondo errore. E questo era il grande Alberto Sordi, insomma, di film che parlano della figura del vigile urbano ce ne sono parecchi. Noi siamo andati a pescare un po' indietro con l'insuperabile Alberto Sordi che, insomma, al suo primo giorno di lavoro da vigile urbano fa già qualche gaffe. Non è una figura, non ce ne vorrà il nostro prossimo ospite, che ispira, insomma, una grandissima simpatia, e Alberto Sordi ci scherzava sopra, quella del vigile urbano, soprattutto quando è chiamato a fare le multe. Però, insomma, lo sappiamo, il mondo cambia. Oggi i vigili si occupano di tante altre cose, sentiremo, perché oltre al traffico nelle città ci sono altre necessità, altre emergenze, per esempio ambientali, perché dell'ambiente si parla giustamente sempre di più. E allora ecco l'idea che viene da Bollate, siamo in provincia di Milano, di mettere in pratica, di realizzare una nuova figura, quella dell'ecovigile. E noi abbiamo convocato, per farci spiegare di che si tratta, il comandante della Polizia Municipale di Bollate, Antonello Martelenghi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ho detto tutto correttamente, perché quando poi si parla con il comandante uno incute sempre un certo timore. Ecovigile, questa è la dizione corretta? Esatto, è la dizione corretta. Ecovigile è un'iniziativa che abbiamo fatto partire da qualche mese a questa parte, quest'anno, dopo l'approvazione del nuovo regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Diciamo, è un agente di polizia locale che è che ha fra i suoi compiti quello di far sì che i cittadini rispettino le prescrizioni previste appunto da questo regolamento. Abbiamo fatto una campagna di informazione nei confronti dei cittadini su questo regolamento e abbiamo fatto anche delle uscite nei mesi di marzo e di aprile, sì. Quindi polizia locale unitamente all'azienda comunale che si occupa appunto di gestire la raccolta di questi rifiuti urbani, per far sì appunto che i cittadini venissero informati e soprattutto perché i cittadini vedessero che sì. C'è un regolamento, ma c'è anche chi fa rispettare il regolamento, chi lo certo. Fa osservare. Ecco, ma ci tolga subito qualche curiosità, comandante. Cosa fa l'ecovigile? Poi, tra l'altro, come lo si riconosce? C'ha una divisa diversa oppure è la stessa dei suoi colleghi vigili tradizionali? No, la divisa è perfettamente identica a quella dei suoi colleghi. Non è un agente di polizia locale speciale, diciamo. Sì. È un agente di polizia locale che è stato scelto, fra gli altri, anche per fare questo tipo di controlli. E c'è stata una formazione, no? Ci diceva, insomma... Formazione, sì. Adesso da maggio, siccome appunto il regolamento è stato approvato a novembre dello scorso anno, è finita diciamo questa fase di informazione e prevenzione nei confronti del cittadino, abbiamo invece iniziato con le attività di sanzionamento nei confronti dei trasgressori. Ai ai ai, e qui siamo alle solite. Com'è andata? Avete già fatto un po' di multe? Sì, abbiamo fatto fino adesso una decina di verbali. Sì. Ecco, ma ci dica subito, ci tolga subito da questo tragico dubbio. Cioè, non è che è un altro modo di un comune per tirare su un po' di, insomma, fare un po' di cassa? No, non è così. No, non è così. Non è così perché, fra l'altro, l'articolo 60 di questo regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani vincola le entrate, diciamo, derivanti dalle sanzioni al miglioramento della qualità della raccolta differenziata. Vale a dire, questi soldi introitati grazie appunto alle sanzioni che vengono comminate dall'ecovigile verranno investiti per attività di prevenzione, informazione nei confronti della cittadinanza e per migliorare, diciamo, la qualità del servizio poi di gestione di questi rifiuti. Ecco. Quindi è un'entrata del comune che però viene investita o reinvestita, diciamo così, a favore poi della cittadinanza. Ecco, senta, esattamente poi insomma, l'ecovigile che tipo di attenzione dovrà avere per strada? Quali proprio mansioni immaginate che debba avere? Insomma, la sperimentazione sta andando avanti, ce l'ha detto, da non molti giorni, quindi siamo proprio all'inizio. Però, per esempio, evitare le multe per la raccolta differenziata sbagliata e quindi, diciamo, anche avere un'utilità da questo punto di vista. Certo, allora, il servizio funziona in questo modo. L'ecovigile esce unitamente alla società comunale, che poi Gaia Servizi SRL, esce unitamente al personale appunto di questa ditta che si occupa della gestione dei rifiuti urbani e per il momento, diciamo, il servizio viene svolto una volta alla settimana. Adesso poi pensiamo magari di estenderlo su un arco temporale, diciamo, a maggior frequenza, però per il momento, diciamo, ci siamo limitati a una volta alla settimana. Si sceglie una parte, diciamo, una zona della città e si controlla che nelle vie appunto prescelte il conferimento dei rifiuti sia corretto. Quindi parliamo di conferimento, per esempio, dei rifiuti nei giorni e negli orari che sono stabiliti per quella via, ad evitare che appunto si lascino rifiuti oltre l'orario o prima dell'orario, diciamo, stabilito dal calendario che viene poi distribuito a tutta la cittadinanza all'inizio dell'anno. Oppure, come è successo un caso, una sanzione per esempio che è stata comminata proprio in questi giorni, riguarda il fatto che in questo aggressore aveva conferito rifiuti domestici all'interno di un cestino dei rifiuti, cosa che non può essere, non va bene. Insomma, il regolamento prescrive che i rifiuti domestici debbano essere conferiti in appositi contenitori con determinate modalità. Il cestino porta rifiuti che troviamo sulla strada, non può essere utilizzato per buttare. Peraltro, diciamo, che non siano cose, diciamo, passeggere. Esattamente. Vabbè, insomma, cari cittadini di Bollate, fate attenzione perché lo sappiamo, i controlli, insomma, ci vanno sempre un po' stretti e poi il rischio della multa è sempre così, incombe e non è che ci faccia piacere. Però il rispetto dell'ambiente, la raccolta differenziata sono norme che tornano utili poi per tutti noi, quindi state attenti. Non so se avete mutuato questa iniziativa da qualche altro comune oppure se qualche altro comune vi seguirà, caro comandante, può darsi, perché insomma ci sembra un'iniziativa in qualche modo lungimirante. O siete gli unici in Italia, avete il copyright per ora? No, non abbiamo il copyright, anzi, sicuramente altri comuni l'hanno fatto prima di noi, sì. Così come altri comuni immagino lo faranno dopo. Diciamo che l'attività è nata per evitare quello che a volte succede nel nostro paese, cioè fare norme, fare regolamenti, fare, diciamo, che poi nessuno si occupa di, non vengono, di far rispettare. Non va bene, siamo sicuri che qualcuno all'ascolto seguirà il vostro esempio, del resto le buone notizie non hanno padroni. Grazie Antonio Martelenghi, Martelenghi, comandante della Polizia Municipale di Bollate, che ci ha raccontato l'iniziativa dell'Ecovigile. Noi ci fermiamo qua per la puntata di oggi, ma come dicevamo prima, anche per questa stagione torneremo a settembre con Si può fare. Io ringrazio Matteo Comas per la regia oggi, poi Franco Piantanida per la redazione, anche Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma. Ad Alessio Maurizio l'augurio di una buona giornata, una buona domenica e soprattutto una buona estate. Volevo parlare della crisi economica, mettiamola così. La crisi è scoppiata perché si è bloccato il meccanismo dello scambio domanda-offerta. I personaggi e gli interpreti di questo sono, da un lato, i produttori che hanno erogato redditi insufficienti a smaltire quanto venisse prodotto, dall'altro i consumatori che sono satolli, grassi, che versano alla moda, che passa di moda, quindi sono affrancati dal bisogno. Per uscire dalla crisi occorre che i produttori ricapitalizzino i consumatori affinché possano smaltire quel che loro hanno prodotto. È un investimento che possono fare per raddrizzare il meccanismo economico e sbloccare la crisi. Sono Mauro Artibani, studioso dell'economia dei consumi. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Sì!